prova, mi senti? Sì, a voglia, sì, quasi 9:20, sì. Ah, sono uscito. Nulla, comunque sei 9:20. Ma dove sei? A Milano? Rispondimi su WhatsApp. Scuso se ne sono sembrato dopo. Ah, farebbe bene, benissimo. Ma ti arrivo io così? Facciamo la prova veloce, ma ti arrivo. Guarda un po'. Aspetta un attimino che faccio la prova. Antu, ci sei? Antu! Ma guarda, così, 1, 2, 3, e così, 1, 2, 3, prova, vai! Tira para adelante. 10, avanti 10. Anthony, Anthony, ci sei? Gianni, avanti. Scusa se non ti ho risposto, ma mi stava suonando la cosa, la porta. Andrea, ci sei? Hola, chicos. Attenzione, 10, K. E avanti. Sì, ciao, sono Andrea. Mi copri? K, Andrea. Sì, anche prima. Hola, andateci un microfono. Anche prima ti ho copiato, solo che stavo aprendo la porta, non ti potevo rispondere, capito? Non ti preoccupare. Come sto uscendo oggi? Bene, forte come sempre. Cosa hai fatto? Poco fa ero... faccio il deposito io, ho piazzato una Ringo per provarla. E va, cazzo, fa un bancaforte, con pochi watt uscivo forte un bel. E K, io ho messo una mini boomerang adesso. Già va bene, ma tu devi prendere la boomerang, quella grande. K, no, già va la piazza adesso tra una o due settimane quella lì. Ma secondo te sta uscendo anche di meno, eh? Ah, guarda, non riesco ad accordare, in realtà, come dire, c'ho anche una cosa, un 50 watt fuori, oltre l'antenna, però non riesco ad accordare. Allineare? Cappa. Non è attaccare, se non accordi non attaccare nessun amplificatore. Cappa, adesso con i coppi molto più basso, vero? Uguale. Uguale, vabbè. Sì, non riesco proprio ad accordarla. No, me ne boomerano, non è pigliano, ti chiedi qua il tuo fratello. No, è simile, però non è come quello di mio fratello. Ragazzi, l'ha data. Sì, sono passato da Fusare, dall'ultima che aveva, e l'ho presa, ma giusto per fare una prova. Dopo la giro a sguscio o me la piazzo come seconda antenna. No, la mini non la dovevi prendere, ma sei sicuro? Mica Fusaro c'aveva la grande me. No, negativo, non aveva più. No, adesso sono riuscito benissimo invece ad accordarla, vedi, sto uscendo 4 watt e le stazionarie sono tra 1 e 1,5. O è 1 o 1,5. Ti stavo dicendo, molto distante sei dal muro, ci sono tanti fattori, devi accordarla piano, comprisola. Tu quando sei a 1,1 già esce. Quanto è alta questa antenna? Si alza 1,5 metri e c'ha un radiale da 70 centimetri. Ma quella là, quell'altra 2 metri, quella è cattiva, quella è una bomba. Ma già userò quella lì adesso piano piano. Ma come si accorda il lineare? Il rosmetro va dopo il lineare, vero? Sì, ma guarda, quando tu sai che le stazionarie sono basse lo puoi attaccare anche senza. Ok. Ma quando io mi accordo con il lineare spento e le stazionarie sono basse, lo posso accendere, così? Scappa, e tu devi avere le stazionarie basse, già dall'antenna, anche se no brucia o ci brucia, o scalda troppo, capito? Tu devi già partire con la base che devi avere le stazionarie basse, se no non va bene. E kappa, capito, bene. Capito? Se no non va mai bene, non va. Ascolta, io ti devo lasciare che vado, ci ho ritratto dal lavoro, vado a farmi la doccia e mi devo riposare. Dai, ci sentiamo, ok? E io forte ti arrivo. Sì, a fondo scala. Grazie per il feedback. Buona doccia e buon riposo. Alle prossime, ciao. Ok, ciao, vai. E io stasera purtroppo devo uscire, andare a fare karaoke e quindi devo riposare, adesso sto già lavorando. Ok. Capo, purtroppo, ma non ti diverti. Ma allora buon karaoke. Ciao, buon sabato sera. Ciao. Yeah. attenzione, canale 10 K, c'è qualcuno? Hola chicos, chi è avanti? K, ho capito che sei. Ciao, ciao, salutone. Sei l'amico d'Alghero, vero? K, K, ti saluto. K, no, io ti saluto, ti ho sentito e sono entrato a salutarti, che mi faccio un pisolino perché sto tutto il giorno lavorando, sono crepato, sono a pezzi. Ciao, ci sentiamo! E beh, cuocomani! Che carai che ci cuocomani? Sì, Antonio, scusa che sto mangiando, Antonio. Oh, ciao, ciao, mi dicevo d'Alghero, c'è. Adesso mi giro, dai, mi riporto 5 minuti, dai. Ok, dai, ci sentiamo dopo, se... Ehi, Antonio, scusami, dai, che non riesco a parlare, ciao. Ciao, ciao. Oggi ho aggiustato un arringo, cazzo, sai quanto esce forte da deposito? Esce un bel forte. Ah, in deposito, ehi, vabbè, perché fischia qua? Ah, c'ho l'altro baracchino acceso. Eia, sì, poi se in alto il deposito va bene, capito? Certo, con una mantova andrebbe meglio, ma per cose banali va bene anche la ringo, capito Anto? Dai, un saluto, a dopo, forse. Gappa, gappa. Ehi, è pur manda che s'antenna. E ce l'ho anche qua, già va, già. Ok, ciao, ciao. Alieni, alieni sono. Sono alieni. Mica ti saluta Sara, ciao Lu. Luca! Se è vero, stai in live. Stai in live. Che carità, quanto, quanto è brutto. Però era una figata con la roba dance di quegli anni, eh. Ci sono cresciuto con quella roba. Ah, mi sono mangiato tutto. Adesso mi devo fare un giro e mettere la moto in garage, eh. Ehi, avanti. Chi era? Ah, è Marcolino. Ah, è Natalino. Ah, è Antonio, caro. Ah, Natalino, non avevo riconosciuto il segnale che sono con il 9009. Ma i natalizi, ci avessi pensato, io oggi ero andato a Platamona a fare un giro con mamma e a Polo Torres. Se ci avessi pensato al rientro avrei bussato e ti avrei dato la quella frusta lì. E invece ovviamente me ne sono dimenticato. E quando mai? Come? Ciao, sono troppo contento, mi sa che sono riuscito a aggiustare la ringo. Sì, è semplice come antenna. Piuttosto, ma questa 27 sta di nuovo morendo. Non sento, sento 10 minuti di questo o poi più niente, niente, la notte niente, non state più entrando. Vabbè, perché magari fine settimana, no, già ci sono sempre io, già. Fine settimana poi vado a... al circolo, capito? Beh, mi pare giusto, locali, bisogna distrarsi. Ehi, vabbè, bella giornata, cioè non bella, era coperto, però non si stava male, c'era un po' di brezza, non si stava male, abbiamo fatto il giretto turistico. Cappa. Ebbè, Natali, tutto a posto? Tutto a posto, da mettere a posto. Tutto a posto e niente in ordine. Ma comunque guarda già, sono proprio contento, ho fatto un bel lavoro, gli ho messo il filo nuovo, ho piazzato bene. Ma cosa ci aveva? Ah, va via che su gozo, non ti dico, quelle... dove entra la femmina del PL che era saldata male, tutta pratica, ecco, l'ho tutto saldato, gli ho rifatto il capicorda nuovo, gli ho rifatto e adesso va, sembra che vada, io l'ho piazzata in deposito, da Lucca arrivavo, 9:20 arrivavo. Ecco, ma questa che stai usando adesso è? No, no, no, ce l'ho in deposito. La femmina del PL la dovevi mettere nuova, una di quelle da pannello ci mettevi. Secondo me cosa ha giocato? Ah, ecco. Ascolta, i capicorda dove si comprano? Che mi servono dei capicorda anche a me. Da Fusaro li ho presi. Ah, da Fusaro. Se no già avevo un labbrico me. Vabbè. Ma come li vendono? A uno oppure in confezioni, so? In confezione l'ho preso. Bel lavoro fatto, se vedi cosa ho fatto, cavolo. È fatto bene pure. Ma l'ha fatto prima a Gazzolate, ma non andava, no. Ui, lascia perdere. Adesso muove tratta bene bene a 1:01 e mette la schiaffo sul tetto. La pongo a 4 metri, da poi ti posso vedere come si anda. No, ti credo che anda. Si è fatta bene il lavoro. Dovrebbe andare sì. Gabba, processa. E Gabba, avanti, Marco. Ma perché devi tirantare Natalino in futuro? Con la nuova? No, negativo. Sì. Non ha manco radiali la nuova. È la Game Master che mi ho preso, capito? Poi ci devo mettere la X30 e quella del PMR che c'è già su, ma la metto più in alto a livello della X30. C'ho il cavo nuovo per l'antenna, il 213 messi e paloni, c'ho nuovo. E quello che ho adesso guardo se è buono lo metto nella X30, se lo metto l'H155, poi c'ho anche una discesa di RG58 nuovo che avevo preso. Eia. Va bene, che dire, sono senza parole, dai, riprendete voi. Cappa, ma chi tu H155? Io ne vorrei almeno una ventina di metri. Ma non ce n'è, non ne ha Fusaro, sono andato a comprarle, non ne ha. Vorrei qualcuno per dividere la spesa, ne compriamo una matassa e me ne piglio un po' io. Da fuori bisogna ordinarlo, qua non ne hanno, cazzo. Non hanno neanche il 213, non hanno nulla. No, ma è cosa più buona tra i santelli. Cioè, il buono è anche la cosa. Ma non mi viene che è molto buono, cavolo. Chi si assomiglia all'H155? RG58 AU col cavo rigido dentro. E lì c'è in gamba un cavo. Adesso non lo so com'è questo. L'RG58 ce l'ho io una ventina di metri. Col PL già attaccato per essere pronto ad attaccarla all'antenna. È nuovo, ho comprato la Fusaro, l'avevo. Luca! Io sto cenando, troppo esco, vado da Mirko un po'. Stavo dicendo, che ho capito perché non uscivo con l'apparecchio, mi si sono attaccati i fili. E poi la battuta, forse perché ti ritrovo, non ne so, sono passato per una prolunga. Ma cosa ho buttato in deposito? Però un bravo vero lui, il segnale 9:20 è un BM, per il posto dove è, in basso. Grande, beh, Natalino, andiamo lui. Come sto uscendo di radio? Radio Venere. Io credevo Radio Holiday. No. solito non c'è più. Vabbè. Ma vero, ma io proprio mi preparo. Ho detto metti il polizoma, sta certo che ci voglio col polizoma. Ma Antonio fa quelle calze a rete, mi. E anche io vado a rete. No, ma quelle a rete, non ti. Tu muscio, eh. Castello se mi arruinati, c'è tutto muscio. No, è tutto impennato, eh. Boo boo. Oia, oia. Vabbè dai, io vi saluto, va, ce la risentiamo. Anche io, là. Mi ho sentito. Adesso esco, c'ho degli amici che stanno aspettando, là. Ciao Natalino, ciao Antonio. A tu, ci vediamo dopo nel caso, là. Ciao. Non ti preoccupare, adesso condete. Vabbè. Adesso non me l'ha mai domandato. Se mi domandano adesso, se la piglia in culo, non vedo. Peggio paese se ti domandano a destra. Buon divertimento a tutti e due, alle prossime, dai. Salutoni. Ma io te la regalo io. Ma con chi ti veni, tu con Sara, con tua cognata. Ehi, te la regalo io. Ma non me l'ha mai chiesto, comunque. E Green Pass, sì, ma mi conoscono, io. Cazzo, sono da tanti anni che vado lì. Poi, ultimamente... non a me personalmente, però a chi gli ha chiesto la tessera, che se non c'erano la tessera non la facevo entrare. Dai, ci vediamo dopo, anche dai, siamo andati lì, ciao, a dopo, ciao. Allora quando succede, quando non rimane i piedi. Ok, dai, ci sentiamo. Buon divertimento, alle prossime. Marcolino, attenzione Marcolino, io sei zero là là, ci sei? Cucina, ciao Luca che sto uscendo, è a bombolo lo stesso. Sì, stavo chiamando in cucina. Dimmi tutto. Dimmi tutto, non ti sentivo, è per quello che ti ho chiamato. Io vado, vengo, torno, aspetta che abbasso il volume. Il ricevitore. Dai. Bene, bene, bene, sono senza parole. Non so che dire, e quindi chiudo, dai, tanto devo portare il mezzo meccanico in garage pure. Vabbè, ci sentiamo alle prossime, io sono commosso quando ti sento dire queste cose, mi commuovo io. Da sempre mi dà quell'errorino qua, premendo il PTT. No, sempre no, però devo mettere il lock, se no se ne va sul canale sotto. Questi apparecchi tutti digitali, sofisticati, Pucci. Io me ne devo buscare uno piccolino per la macchina. Se non riesco a aggiustare questo me lo devo buscare uno. Non è che ce l'hai tu uno per la macchina? Hai detto un baracchino? Piccolino, di quelli piccolini, perché il 3009 è un barrasone. È vero, vabbè, è un barragione, ma sai, sciabenevi radio, non prende il QRM che prendono tutti questi apparecchi digitali di adesso. Se no io ti avrei consigliato il meno che costa il PNI 6500, alias CRT Millennium, il più piccolo in assoluto, so che vabbè non è la stessa cosa né come modulazione né come ricezione né come QRM che imbarca. Ma io c'ho un Intec qua di quelli piccolini, adesso vediamo un po' se riesco a aggiustare la storia del potenziometro, perché come lo accendo, no? Se vado a abbassare troppo il volume smetto il QRM a colpi rami, vorrà pulito. Ma tu il Polmar ce l'avevi sempre, lo ZX40? No, l'ho regalato a un amico a chi va, non andava a carruccio. Sì, l'abbiamo provato in macchina da un'altra persona, ma male male non va. Trasmettere trasmette, certo un po' barattolato, ricevere riceve. Questi piccoli sono un po' così, se vuoi andare di... il 3009 comunque è un bijou in macchina, più silenzioso, e che in FM non va tanto bene, c'ha l'FM l'onfia, è strano l'FM, riceve in modo ambiguo, come se fossero spostati di frequenza gli altri, non, una cosa irrisolta è quella, boh. Ma non lo sapevo, Guarda, su tre apparati avuti similari, a parte quello frequenzimetro, comunque è lo stesso apparecchio, in FM deve mettere il clarifier tutto indietro, alle volte anche il fine corse, cioè quello per sentire meglio. È come che non fosse centrato, boh, non ci ho capito niente io. Ci vorrebbe una tutta la strumentazione e farlo a puntino, a caldo, fargli tutte le tarature, però vanno sapute fare. E quelle medie frequenze, roba delicata a me. Va centrato in ricezione e in trasmissione. In tutti i modi, naturalmente, AM, FM, USB, USB, eccetera. Ma questo va, non lo toccate, non lo voglio toccare, non lo voglio manco mettere in macchina, perché è nuovo, nuovo come l'ha comprato. C'è ancora il cellophane sui coperchi. Invece sai che questi apparecchi nuovi che stanno uscendo, tipo i President nuovi, non hanno alcun trimmer all'interno, né bobine, addirittura certi sono senza bobine. Gli fai le tarature tutte col menu di servizio, capito? Un menu di servizio nascosto a cui accedi con combinazione di tasti, naturalmente ti devi segnare i valori originali perché sono dei numeri che non vogliono dire di per sé niente. Te li segni, poi fai le prove. Io per esempio in uno gli ho aumentato la deviazione FM che era troppo stretta e gli ho aumentato la M, la modulazione M anche. E molti ti permettono anche di centrarlo in trasmissione, vedi la Lincoln X10, perché in USB era spostato e l'ho fatto a puntino alla perfezione. Ma che ho capito, io lo vorrei provare questo qui, SSB. Non ti ho capito, c'era un ambulotto lì. Ha sentito quel delinquente che sta salendo a casa sua al cane e allora si mette a bagnare, non lo può vedere, manco fatto a pezzi. Statene il cane, statene la besba. E a che divina unzu? E vedrai che lo morsica. Eia. Addirittura hai presente il 5005, no? Sì, hai presente. L'hanno rifatto nuovo con nuova scheda, che sembra una scheda del President. Non hai tarature di alcun tipo, né bobine. Per le tarature anche in frequenza si fa tutto dal menu di servizio, è molto interessante. E lo vendono come MAS 5000DX, KPO 5000DX, oppure CRT 6009V, versione V, V di Verona, capito? E c'è questa scheda piccola piccola, praticamente è mezzo apparecchio e vuoto, però è interessante come l'hanno fatto. E c'ha delle cose in più anche che gli altri non hanno, tipo il Vox, e perciò sembra una scheda President anche, e anche altre cose che adesso non... i subtoni li hanno messo, i subtoni come gli apparecchi amatoriali, tipo bipanda, portatili. Io ho capito, e poi a cosa servono questi subtoni non ho capito. Va. E tu puoi parlare, se tu devi fare delle cose con una persona, te ne vai su un canale libero, ti metti sui toni e tu senti solo l'altra persona. Se entra uno che non ha il subtono, lo squelce non ti si apre, vedi un segnale ma rimane muto. E ho capito. E quelli tornerebbero utili per aziende, più che altro se ci fossero aziende che usano i CB o come dai 43 MHz. Credo che i subtoni ci fossero opzionali o di serie, in modo da escludere tutti tranne gli interlocutori che ti interessano, capito? E solo che gli altri ti sentono, cosa dici? Sì, sentire ti sentono, però almeno tu non senti la propagazione in estate che ogni tanto ti sblocca lo squelci di continuo, allora devi alzare lo squelci di continuo, alzarlo. Vabbè, comunque una sua utilità, una loro utilità ce l'hanno, poi vabbè, in 27 è una cosa ben poco conosciuta, questa dei subitoni, non si usano. Loro i subitoni li usano per aprire i punti, per esempio. Esatto, sul ripetitore. devi mettere anche con i più semplici, anche con i bau bau, devi mettere la direzione di spostamento, cioè in più o in meno, in alto e in basso. Devi mettere il valore dello spostamento, che può essere meno 600 o più 1600 per la UHF, no? In V si usa meno 600, in U più 1600 mi pare, se non hanno cambiato, o più 1800. No? E poi il valore del subtono del ripetitore, capito? Tre cose da mettere di solito. Un attimo Marco, devo portare le tazzine del caffè a mia moglie. Fai, che poi ci salutiamo e così vado a fare sta commissione. Cazzo di bomba. Vabbè, se devi fare cosa, allora ci sentiamo alle prossime, Marco, dai. Ehi, hey, Natalino, non so se dipende da me, ma ti si è abbassato il segnale. Ora, qua è tutto normale. 1.0 di stazionarie. Ma io sono sempre... L'ho anche escluso, ma... Ah no, c'è il coso, l'accordatore. Aspetta un attimo. Sì, forse sei a bassa potenza. Perché anziché il più 30 mi accendevi il più 20. Prima era più 30, ho detto, boh. Allora mi sto sempre ascoltando, mi sto mettendo, capito? A quanto arrivo io da te, Marco? Fondo incollato, questa LED 9 più 30, c'ha il più 10, più 20, più 30. Tu sei ovviamente incollato al più 30, ma manco a chiederlo. E siamo troppo vicini. Sì, Natalino invece è sceso di segnale adesso. Quando è entrata la 9.30, adesso è 9.20, un po' oscillante al 9 più, come se fosse 9.25. Si accende appena appena il più 30, ma si spegne subito. Io non ho fatto nulla qua. Non ho fatto, capito? No, ma può lasciare che sia la modulazione, sai, con i moduli si accende e si spegne il LED. In questi elettronici lo fa, questi smitter a LED un po' lo fa. Io vedo che stai insomma picchi positivi tu. Io? Sì, questo dovrebbe dare pochi watt, 10 presumo, 10 normali, ma 30 modulati, che io ricordi, 30 modulati, guarda. Ma dai, io vi saluto, c'è scale bruciagare, sta come. E c'è qualcuno che non spacciano facendo di radio, chi è avanti? Oh, Portantina, non lo so. Sì, Santiago Nove anche qua. Dai, ce la risentiamo, ciao. Ciao, alle prossime. Tu cosa rotti? Che sono sceso anche tu? Non rispondere. E con un gusto sorprendente. E c'è la direzione. Allo, mettiamo l'accordatore. Prova anche i nuovi bastoncini digitali. Hola. Pesce gustosi e nutrienti. Mi piace sempre la storia. E sono sempre a zero io, No, fregatene. È come molto detto, se la faccia di spegne. È una caratteristica di questi giocattoli di Smith. Va bene. Oh, se vuoi io ti posso arrivare fondo scala mia. Ma se sei già fondo scala. Ah, sono già. Cosa vuoi fare il giro, il doppio giro di Smitter? E questo già te lo fa fare davvero. E che io sono sempre a zero, zero, non si muove da anch'ivi. Via. Va bene, Natali, io allora stacco, poi come torno mi faccio il caffè, eccetera. Mi metto qualche film e ci intendiamo quando capita, ok? Oggi è sabato sera, sicuramente molti sono andati fuori, chi prima, chi dopo, vedi, tutti a conquistare, capito? E vabbè, allora buon proseguimento Marco, ci sentiamo alle prossime, dai. Io stavo ascoltando poco fa, però ho tolto l'audio, se non si sentiva qua. Ehi, anche voi vuoi entrare avanti? Oh, c'è un segnalino, qualcuno che sta tentando di trasmettere, ma non esce, boh. Va bene, ok Natali, ciao, buona serata, saluti in casa, ci sentiamo, ciao. Altrettanto, ciao. quattro umane. E beh, quattro umane.